Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Juventus, Football Club, Italian Champion. Ci possiamo salvare col Monaco e poche altre. Two times. Monaco, Dortmund e Porto. E Porto. Ci sono ancora? Sì, sì, sì. Six. Pavel. Will travel to Torino. 75% di possibilità. Chi andrà a Torino? You ha detto, il Dortmund. Vediamo se ha azzeccato. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, la chiamata. Eccola. Borussia Dortmund. Potabile. Potabile? No. Potabile. Siamo contenti. Potabile. Sì, sì. Potabile. Credo di proprio scoprire proprio il nostro livello europeo, non parlo dell'Italia perché lì credo che ci siamo riconfermati, però a livello europeo vorremmo capirlo anche noi, e questo ce lo dirà veramente questa partita qua. Sicuramente ci poteva andare peggio perché ci sono rimaste Bayern, sia Bayern che Real in gioco, perciò preferiamo sicuramente Borussia Dortmund, però dobbiamo stare molto attenti perché è una squadra molto, molto forte. Io credo che ce la possiamo giocare, viso aperto con loro, vedo la sfida quasi alla pari, perciò non dico che passa la Juve, però io sempre con il rispetto per l'avversario credo che ce la possiamo giocare. Dato che Garcia è così bravo a suonare il violino, mi faccia sentire la musica della Champions, per favore. È il messaggio di un ascoltatore, ascoltatori che vedo già allineati a questo lunedì da Sturm und Drang. Franco Cantaneda, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, e io voglio le vostre voci. 800240024 per commentare la giornata di campionato di ieri, che è finita tra gli strilli e gli strepiti, come sapete, sul fronte juventino e su quello genuano. Poi oggi si è aggiunta la replica della Roma alle parole infelici e totalmente fuori luogo di Preziosi, che ha provato a correggere il tiro, ma io ieri dicendo a Roma stanno succedendo cose strane, non vorrei che c'entrasse anche il calcio, no, ha detto queste parole ieri. Ho già corretto, ma non ho parlato di mafia capitale, non ho detto questo. Ha replicato Baldissone sul fronte romanista, parlare di aiutini a noi è un messaggio sciocco e insano. L'impressione è che si andrà avanti per un po'. Intanto sorteggi lunedì, strano lunedì del sorteggione. Alla Juventus per gli ottavi di finale di Champions League non va male, inutile nasconderlo. Pesca la squadra penultima in classifica nel campionato tedesco, che ha perso nell'ultimo weekend 1-0 con l'Hertha Berlino, gol di Schäuber al 40° del primo tempo. In classifica a 14 punti dopo 15 partite insieme a Friburgo e Werder Brema, un punto in più dello Stoccarda che è ultimo, due in meno rispetto all'Hamburgo che è sopra la zona salvezza. Si tratta del Borussia Dortmund. Certo, nulla è facile. Borussia Dortmund sta vivendo una stagione disgraziatissima, ma sappiamo quale sia il suo recente passato, sappiamo che potrà recuperare degli infortunati, sappiamo che non sarà semplice, sappiamo che la Juventus giocherà questo doppio confronto tra il 24 di febbraio e il 18 di marzo, a cavallo della partita con la Roma il 1 marzo, Roma-Juventus. Quanto alle altre di Champions, poi andiamo sull'Europa League, Sorteggio anche per la pattuglia nutritissima delle nostre Europa League. In Champions invece due confronti interessanti. I due più interessanti sono Paris Saint-Germain di Ibrahimovic contro il Chelsea di Mourinho. Mourinho tra l'altro aveva detto: "Ma io spero nel Paris Saint-Germain perché così il viaggio sarà breve da Londra a Parigi, non dobbiamo perdere molto tempo". Ce l'hai Franco Piantanella, sentiamolo. We don't have a lot to choose because we have only five possibilities. But to make it easy for everybody, Paris, because easy for us to travel, easy for the fans to travel, don't spend a lot of money to go there. A very good team, and I prefer a good team that really motivates the boys. So if I could choose, I can't. But if I could, I'd say Paris. Questo era Mourinho, dunque incontrerà il Paris Saint-Germain. L'altro confronto interessante è City-Barcellona, con City che ha eliminato la Roma, come sapete, il Barcellona che non è nell'edizione più brillante, anche se insomma sta prendendo decisamente quota con Luis Enrique, però non è, onestamente non è più il Barcellona di 3-4 stagioni fa, neanche dell'anno scorso. Il resto, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid non fa venire i brividi, Schalke 04, Real Madrid è segnato e non potrebbe essere altrimenti. Così come non ci sono grossi dubbi su chi passerà tra il sorprendente peraltro Shakhtar Donetsk e il Bayern di Monaco. Equilibratissimo il confronto tra Arsenal e Monaco. E poi c'è la pepatencia, come sanno i giocatori di carte da bar di Milano, Basilea-Porto. Ebbene, tutti vorranno quella che uscirà da questo doppio confronto, questo è evidente. In Europa League, volete sapere? Volete sapere l'Europa League? Bene, allora aspettate, dopo il traffico vi dico tutto. Allora, senza Royce, 70 Juve, 30 al Dortmund. Accidenti, che ottimismo! Sì, io in assoluto dico leggermente favorita la Juve, 55-45 va bene. Tutti convocati. Roma, Feyenoord, Rotterdam. Contro il Feyenoord. Feyenoord, Rotterdam. Roma versus Feyenoord, Rotterdam. Trabzonspor. Scorso anno avversario della Juve. From Turkey. Napoli. Contro il Napoli, Trabzonspor. Napoli. L'Inter sarà l'ultima squadra a uscire dall'urna contro il Celtic a Glasgow, che non è più la squadra che pose fine all'epopea della grande Inter. Celtic FC nella finale di Lisbona ormai di qualche anno fa. Celtic contro Inter. Ecco qui Tottenham, vediamo se tocca all'Inter o alla Fiorentina. Two Italian left. Tottenham contro Fiorentina. Torino FC from Italy. Athletic Club. Torino Bilbao contro Athletic Bilbao. Athletic. Allora, vi piace questa? Torino Athletic Bilbao, inedito per le coppe, con il Torino che ha la possibilità di vendicare il Napoli, ma soprattutto di farsi un grande regalo. Ventura voleva un'avversaria di grido, di nome, di peso, di sostanza, di libidine, penso ce l'abbia avuta. Napoli-Trabzonspor, beh, non male per il depressissimo Napoli che abbiamo visto ieri a Milano. Roma-Feyenoord, Tottenham-Fiorentina, qui si fa dura. E poi Celtic-Inter, che è la finale, se non ricordo male, di Lisbona 67. Di quei tempi attualmente sono rimaste queste due squadre, il nome e i colori peraltro mixati in maniera strana. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, te? Bene, bene, bene. Lavorando as usual, ma molto bene. Chi c'è stasera? Stasera è una salotto puntata di Tiki-Taka. Dimmi, dimmi. Una puntata super. Abbiamo tante sorprese in arrivo. E tanti temi, soprattutto, Tanti sì? temi. Beh, insomma, è successo di tutto ieri, fra moviole, polemiche, gestacci, scambi, affermazioni abbastanza ardite, spericolate, come quella di Preziosi, insomma. Possiamo discutere ovviamente sull'espulsione di Perin, l'abbiamo fatto lungamente anche ieri, ma non credo che c'entri nulla la penosa vicenda di Massia Capitale, quindi insomma, ma dai. Quella a me sembrava veramente una butad. E poi, no, parliamo di sorteggi che mi sembrano interessanti, stimolanti, eh? Sì. Allora, alla Juventus ce n'erano tre che potevano andare meglio delle altre: Monaco, Porto e Borussia Dortmund. Una di queste tre l'ha beccata. Sì, probabilmente la più difficile delle facili. Però le forti sono talmente forti che questo è un sorteggio positivo. Nel senso che poi in assoluto, ripeto, secondo me è la terza più facile. Perché Porto e soprattutto Monaco secondo me erano ancora meglio, però è chiaro che insomma la gioia di aver evitato quelle con le quali praticamente non te la puoi giocare è talmente grande che insomma trasforma tutto inevitabilmente in una festa. Sì, poi Borussia Dortmund nella sua peggior stagione, ricordavo prima penultimo in classifica del campionato tedesco, va sì, bene, si gioca Champions, tra un po', sì. Io l'ho commentato sia contro l'Arsenal, l'andata e il ritorno in Champions ha fatto un cammino eccezionale, quindi poi bisogna stare molto attenti. Guarda, il Dortmund è una squadra che già di suo è molto umorale, c'è una squadra che negli anni ha avuto dei picchi di rendimento incredibili e delle cadute abbastanza impronosticabili. Il punto più alto sarà sicuramente la finale di Champions League conquistata a Wembley 2 anni fa, e oggi mi sembra che viva una fase appunto complessa, ma il calcio di campionato è un calcio completamente diverso dal calcio di Coppa, secondo me non è un'avversaria facile. Poi per tutti gli incroci vale il fatto che ne parliamo fra due mesi, per cui può cambiare tutto, c'è il mercato di mezzo, ci sono due mesi che possono sistemare la situazione in classifica oppure possono peggiorarla, quindi le incognite sono tantissime. Secondo me non è un sorteggio facile, è un sorteggio 50-50, non è, sì, non è favorita la Juve, non è favorito il Dortmund. Prima sentivo Marocchi dire 70-70 Juventus, 30 Borussia Dortmund, mi sembra tantissima roba. Conta anche che il primo marzo, cioè tra le due partite, 24 di febbraio e 18 di marzo, il primo marzo c'è una robetta da niente, Roma-Juventus. Vabbè, così. Stiamo parlando di un appuntamento secondario. No, però insomma voglio dire, il Dortmund pure avrà le sue partite, avrà le sue difficoltà, i suoi ostacoli. Io credo che sia una partita giocabile, e credo che sia una partita alla pari. Io credo che sarebbe, dire che la Juve ha il 70% di possibilità è un po' ottimistico. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto il girone con l'Arsenal e la Juve ha perso il girone con l'Atletico Madrid pur qualificandosi, quindi già soltanto per questo secondo me, se uno vuole provare a essere oggettivo. Poi anch'io ho buone sensazioni, ho la sensazione che la Juve possa giocarsela e possa far risultato, però 70-30 mi sembra un po' troppo. Senti, in dubbio che ci siano due confronti più interessanti degli altri, e sono Ibra contro Mourinho, PSG Chelsea e City contro Barcellona. Assolutamente, City contro Barcellona, tra l'altro un déjà vu a livello di ottavi di finale, sì. Paris Saint-Germain Celtic è un déjà vu l'anno scorso a livello di quarti di finale, sì. Quindi in qualche modo racconta che tipo di partita è. E poi insomma voglio dire, alla fine Paris Saint-Germain e Barcellona, che l'altro giorno si sono scannati per giocarsi il primo posto, alla fine nessuna delle due ha pescato facile, perché hanno pescato due squadre inglesi divise in classifica adesso da 3 punti, e faccio fatica ad oggi a dire che affrontare il Chelsea è sicuramente peggio che affrontare il City. Io penso di sì, per la tradizione europea senz'altro. Vai, per me il Chelsea in questo momento, se facciamo un ideale classifica, un ideale podio delle squadre europee, secondo me sono Atletico, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, medaglia di bronzo in questo momento. Sì, sono d'accordo. Invece Europa League, Torino Atletico Bilbao, confronto inedito. Ventura voleva un avversario emozionante, mi sembra ce l'abbia avuta. guarda, l'Europa League quest'anno è una cosa, è venuta fuori una roba che speriamo che continui per tanti anni a essere così bella, perché per la prima volta, al di là dell'impegno delle italiane e del contributo che le italiane danno anche alla nobiltà di questa manifestazione, perché insomma avere in mezzo cinque squadre del nostro nome, della nostra storia, anche della nostra qualità, comunque aiuta il livello tecnico della competizione. Ma quest'anno l'Europa League, se tu prendi le 32 squadre, quelle scarse, quelle deboli, quelle marginali nel calcio europeo sono 4-5, non di più. Per cui è fantastico, è fantastica la serie di partite che c'è, e devo dire che secondo me abbiamo avuto un po' di fortuna col Napoli, credo anche con la Roma, credo che la Roma abbia alla fine un avversario giocabile. Feyenoord, io resto convinto che la Roma scriverà con la mano sinistra la sua storia in Europa League. Sì, però che ne dicano, non sono resto convinto di questo. Bisognerà anche vedere come si arriva a febbraio, ovviamente. Certo, difficilmente si arriverà a febbraio con il campionato chiuso in un senso o nell'altro, o comunque con un campionato ben indirizzato da una parte o dall'altra. Io penso che si arriverà testa a testa a febbraio, quindi credo che ci sarà grandissima attenzione al campionato. Questo riguarda sia la Juve che la Roma, ma probabilmente soprattutto la Roma, perché la Juve, diciamo che dopo aver vinto 3 scudetti, può anche pensare quest'anno di fare qualche investimento superiore sulla Champions League, un po' perché ha vinto gli ultimi 3 scudetti e un po' perché comunque è la Champions League, che comunque è meglio dell'Europa League, insomma, su questo non ci sono dubbi. La Roma, sì, ci può stare la tua suggestione, è troppo importante l'occasione di potersi giocare fino alla fine del campionato, essere realisti, dai, poco attraente l'Europa League, però insomma secondo me questo turno col Feyenoord può essere superato senza grandi problemi. Cioè, la Roma è più forte del Feyenoord, secondo me l'Inter è più forte del Celtic se recupera un minimo di condizione, e il Napoli è più forte del Trabzonspor, anche quello di ieri sera. Ma quello ieri sera probabilmente perde anche con Savoia con la Juve Stabia, ecco, non vorrei essere offensivo nei confronti di nessuno. Il Napoli ieri sera è un mistero. Napoli ieri sera sembra una squadra la fine del regno, ecco, gli ultimi giorni di Pompei. Sembra una roba di questo tipo, perché veramente non c'era niente, anche in quei segnali, diciamo così, di umore, di ambiente, veramente si è visto il nulla. Questo Benitez cupo, malinconico, seduto in panchina, incapace di dare una svolta sia dal punto di vista della sostanza, ma anche dal punto di vista della forma, insomma. Sì. Punto di vista emotivo, Pierluigi, anche dal punto di vista emotivo. È chiaro che non è che alzandosi in piedi o togliendosi la giacca e rimanendo in camicia, come faceva per esempio Mazzarri nei tempi d'oro, non è che ti cambia la vita necessariamente, che lo show però ci sono dei segnali che tu invii ai giocatori, all'ambiente, presente. Ieri Benitez sembrava veramente, fra l'altro fra una settimana sarà a Doha in un curioso remake di un'altra competizione che si è giocata in quei paesi lì, ad Abu Dhabi, quando vinse, ricorderete, il mondiale per club con l'Inter, e poi ci furono le dimissioni, o meglio le sue dichiarazioni che portarono all'esonero. Ecco, questo è successo 4 anni fa, 4 anni dopo rischia, se dovesse perdere contro la Juve, rischia pure l'esonero, posso dirlo. Sì, certo, anche secondo me. Anche magari non essere d'accordo, però ci sta che possa rischiare l'esonero. In questo momento con la squadra che sembra aver preso veramente una china, ecco, la partita di ieri è una di quelle partite che sono senza attenuanti, senza giustificazioni, non c'è niente da salvare. Anche perché sinceramente ci arrivi sulla scorta di 3 pareggi, lasciamo stare la partita di Europa League che contava fino a un certo punto, però ci arrivi sulla scorta di 3 pareggi brutti in campionato. Arrivi a Milano, giochi con il Milan e giochi in quella maniera una partita che alla fine è un confronto diretto, perché il Milan ha recuperato il Napoli, e allora dove vuoi andare? Va bene, vai a Doha, ti giochi la Supercoppa, però perdi quella e poi che cosa succede? Qual è il piano? Esiste un piano B? Questo non bisognerebbe chiederlo a De Laurentiis, che però non parla da tempo. Assolutamente. Allora, non parla lui, non parlano i giocatori, insomma, silenzio stampa, come spesso succede, poi alla fine non serve a niente. Se non ad aumentare la confusione. Assolutamente, non serve a niente, serve semplicemente a togliere ai tifosi la possibilità di sentire il punto di vista dei propri giocatori, quindi insomma, è chiaramente non è un rimedio, è un'illusione che possa rappresentare un rimedio. Ci fermiamo per la borsa. Alessio, provincia di Treviso, e Moreno da Vicenza, state lì per favore, perché subito dopo questa interruzione parliamo. Tutti convocati. Sunrise. 10 minuti, è 1-0 di testa, alla presa, il più piccolo di tutti, Patrice Evra. Eder che passa al limite, può allargare in area, Gabbiadini ce l'ha sul sinistro, Gabbiadini, Gabbiadini! Che gol di Manolo Gabbiadini, che fa 1-1, la mossa di Mihajlovic, è vincente, pareggio della Samp al sesto della ripresa. La squadra abbia fatto il massimo, mi ha dato da tantissime partite con grande intensità, purtroppo dispiace, ricordo a tutti vincere anche oggi, non ci siamo riusciti, rimaniamo in testa al campionato e questa è la cosa che conta. A terra di Aic, è tutto regolare per l'arbitro. Maicon, Perotti, Maicon ancora sul pallone, molto bene. Di vicino di nuovo di Aic, Maicon, il suo cross per Nainggolan che la gira in porta, avanti la Roma al 40esimo, Raja Nainggolan. Abbiamo sfruttato questa occasione di tornare a meno uno, che non abbiamo sfruttato l'altra volta, e questa volta abbiamo imparato bene, abbiamo vinto qua dove a Genoa è sempre difficile vincere e sarà difficile per tutte le squadre che giocheranno qua. Eh sì, storia infinita, probabilmente fino alla fine. Io ci credo, non so voi, credo anche Pardo ci crede, un testa a testa fino alla fine. Penso di sì, poi ovviamente le coppe potranno avere un loro ruolo e anche la condizione complessiva delle due squadre. Credo che in generale, visto che possiamo fare i bilanci dopo una quindicina di giornate e dopo 3 mesi e mezzo di campionato, sono due squadre che si equivalgono, sono due squadre separate da piccoli dettagli e da sensazioni. Una volta ti sembra più forte, più sicura, più cinica una, la volta dopo pensi l'esatto contrario, e c'è un punto di differenza e questo dice molto, insomma. Poi sono molto diverse come stile di gioco, certamente la Juve è più forza, è più compattezza, è sì, più ricerca, no, della forza muscolare, della grinta, della garra. La Roma è una squadra più champagnona, insomma, sì, forse estro, più talento, varie soluzioni. Adesso però, che si è sementato quella dei due attaccanti atipici che abbiamo visto, i Turbe che peraltro non sta combinando nulla, Gervinho, una Roma forse deve fare a meno di Totti in questo momento in determinate partite, che non può fare a meno secondo me della freschezza di Florenzi, insomma. Poi ne parliamo. Intanto Alessio, provincia di Treviso, grazie per l'attesa, anche a Moreno grazie. Alessio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io in odore di sorteggi europei e con un po' di nostalgia penso al buon vecchio Diego Milito, che questa notte ha vinto il campionato argentino. Uh-huh. E mi piacerebbe sentire da voi che cosa ne pensate, se un giocatore con queste caratteristiche poteva tornare buono a una delle formazioni che si cimentano nel panorama europeo. Grazie di ascolto in radio. Non lo so, e comunque la vittoria di stasera secondo me riempie il quadro, rende il quadro perfetto, ecco. Cioè io non credo che nessun'altra squadra di quelle nelle quali poteva giocare Milito da titolare, ma nessuna squadra gli poteva dare le emozioni che ha provato stanotte. Quindi secondo me a un certo livello del calcio europeo Milito non era più in grado di poter fare la differenza, l'ha dimostrato evidentemente negli ultimi mesi con l'Inter, in un calcio diverso, nella sua squadra, con una storia romantica di quel tipo, si è tolto una grande soddisfazione. Quindi mai come stavolta la scelta è stata giusta e completamente azzeccata, e secondo me c'è poco da dire, insomma. Del resto, ragazzi, Milito niente è eterno per lui, appunto, insomma, capito, neanche del Piero è eterno, come stiamo vedendo, no? Sì. Poi alla fine nemmeno la Dea Calì riesce a nemmeno la Dea Calì, nemmeno Totti sarà eterno, insomma. Adesso viene discusso per la partita col City, eppure è uno di quelli che poi è chiaro che piacerebbe a tutti noi avere la bacchetta magica e togliere a certi grandi campioni 10 anni così, pam, ne hai 10, ne hai ancora 25 e via, e la ruota continua a girare. Ma non è possibile fare discorsi di questo tipo, anzi secondo me il limite di alcuni grandi campioni è proprio nell'incapacità di capire, è vero che si divertono ancora, è vero che probabilmente non lo fanno solo per i soldi, però l'incapacità di capire quando è il momento di scendere da quella dannata giostra o da quella meravigliosa giostra. Moreno, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Genta, io sono tifoso del Toro, no, volevo farle solo un piccolo appunto. Poco fa nel radiogiornale hanno detto tutti gli accoppiamenti dell'Europa League e hanno messo la partita del Torino. Spero sia solo stata una dimenticata. Chi l'ha fatto? Scusi, non ho capito. No, ho sentito il radiogiornale adesso di Radio 24, alle 2. Adesso controllo istantaneamente e volano gli stracci. Allora diciamo che mi sono un po' indignato. No. Il romanista Simone Spezia adesso, ecco, Simone Spezia. No, ma posso dire una cosa che molto spesso c'è una dietrologia. Adesso il nostro ascoltatore ha anche ragione di indignarsi, perché chiaramente gli italiani sono 5, ma c'è delle volte una dietrologia. Arrivano dei commenti sulla sigla di un programma televisivo, su delle cose che se veramente uno scoprisse poi come funziona la vita nelle redazioni, si renderebbe conto che sono cose proprio talmente di routine e delle volte delle dimenticanze talmente banali che non giustifica, per carità, oppure la scelta di un'immagine piuttosto che di un'altra, tante volte è un semplice fatto di semplicità dell'immagine che ci può stare, che vedi prima, quindi sai, poi però c'è una letteratura, si pensa a questa immagine qui, o il famoso replay della Rai, no? L'anno scorso Roma-Juve, il replay della Rai che non c'era, e non c'era perché in quel tipo di configurazione produttiva della Rai, il gol di Peluso, non c'era la telecamera sulla linea di porta, e quindi non è che c'era un'immagine e qualcuno se l'è mangiata, se l'è ingoiata, non c'era, nessuno poteva immaginare prima della partita che sarebbe arrivata una situazione di quel tipo, però poi alla fine c'è pure chi ha pensato male, che non c'era apposta, come mai non c'era, e non c'era perché non l'avevo previsto quella telecamera. Cioè, tante volte le cose sono più semplici di come uno poi immagina, insomma. Massimiliano Nerozzi dalla Stampa, buongiorno. Oh, Nero. Come stai? Ciao, buongiorno a tutti voi, ciao. Ciao. Ti sei divertito in questo weekend, in questa domenica surriscaldata? Oh, mi sono divertito. Eh? Sì, che mi sono divertito. Sei divertito, eh? Sì, assolutamente. Ti sbagliato il pronostico della Samp, quindi mi sono divertito molto. Tanto domenica surriscaldata in cui Preziosi è scivolato su una sciocchezza, anche se oggi ha ritrattato, diciamo. Baldissone ha precisato che parlare di aiutini per la Roma è un messaggio sciocco insano. Io credo che si andrà avanti così, a braccetto e a strillare di tanto in tanto fino alla fine della stagione. Purtroppo hai ragione, dopodiché ieri tutti nelle redazioni si sono detti da che pulpito viene la predica, se mai fosse stata questo il sasso lanciato, ma meno male che ha ritrattato, ma meno male che ci sono le registrazioni, quindi non sono i giornalisti che sono inventati questo, e dopodiché hai ragione su tutta la linea, su tutte le squadre. Mi verrebbe da dire, vista la dichiarazione di Baldissoni, che dovrebbe dirlo anche a Garcia, perché se ti ricordi anche Garcia dopo la partita con la Juve non disse forse vocabo aiutini, ma sappiamo perché la Juve è lì, quindi penso che il peccato ci sia in ogni club, e come dici spesso tu, basterebbe finirla, piantarla e non andare avanti. Tu però quella volta hai detto questo, ma l'hai mai vista? Mai, di che stiamo parlando? Cioè, hai mai visto? Ma no, facciamo, no, fa niente, dai, facciamo un po' per uno e andiamo tutti d'accordo, e poi quando ci troviamo faccia a faccia ci arbitriamo da soli, dai, è una cosa irreale. Juve Borussia? 45 Juve, 55 Borussia. Ah, uguale a Marocchi, preciso. No, l'opposto di Marocchi. Appunto, sì, ha detto 70-30, identico pensiero. No, non lo so, guarda, io penso che la Juve sia una squadra più forte del Borussia adesso, cioè il Borussia non ha più Lewandowski, non ha Gresche, però c'ha la tradizione che negli ultimi tre anni la Juve non ha, cioè negli ultimi tre anni il Borussia è tra i grandi d'Europa, la Juve aspira a diventarlo, e secondo me queste cose contano. E il Borussia vola in Champions, la Juve sta camminando. Magari a febbraio ci smentisce tutti e siamo tutti contenti, però per quel che si è visto, io penso che questo sia il bilancino, anche perché in Champions lo vediamo in TV tutti i mercoledì o martedì e si gioca un altro sport, secondo me. La Juve può giocarlo, ma non l'ha ancora fatto, e quindi siamo molto curiosi. Sì. Pardo ieri ha commentato Juventus-Sampdoria, che impressione ti ha fatto la Juve? Io? Sì. Lui? Tu Pierluigi. No, mi ha fatto l'impressione di una squadra che è partita benissimo. È una partita, ne parlavo anche ieri, una partita che mi ha ricordato, per dirti, quel famoso Roma-Sampdoria 1-2, no? Che costò lo scudetto alla Roma. Sono quelle partite che una squadra domina nel primo tempo, non chiude, né? Ce n'era un'altra della Samp che ce l'hai venuta in mente, che hai fatto tu l'esempio, che era perfetto, pensaci, un'altra roba del passato. Con Napoli? No. Non lo so, come sono bollito ormai a certa età, però voglio dire, comunque, ma di quando? Non mi ricordo, l'hai detto tu ieri pomeriggio, eravamo lì in radio in Viale Monterosa, vabbè, sì, insomma, vabbè. Comunque il punto è quello, sono quelle partite che se non chiudi poi improvvisamente possono cambiare segno, e il fatto che ci sia stata una così grande sproporzione diventa quasi una cosa che le peggiora, cioè peggiora la condizione della squadra che la stava dominando, non la migliora, perché psicologicamente la botta del gol di Gabbiadini è stata enorme, al di là del fatto che bisogna anche riconoscere i meriti di Mihajlovic, che nel secondo tempo quel cambio l'ha voluto, ha messo in campo la squadra con un atteggiamento completamente diverso. Quindi detto questo, la Samp si conferma una squadra molto strutturata, molto solida, con degli attributi abbastanza pesanti, che infatti ha perso una sola partita come del resto la Juve in tutto il campionato, e questo non è un dettaglio, e la Juve per me rimane fortissima evidentemente, però insomma ci sta che possa steccare qualche situazione, qualche partita, esattamente come anche la Roma la sta steccando. Mi sembrano veramente due squadre, ripeto, fortissime tutte e due, completamente diverse, ma in questo momento dalla forza difficilmente distinguibile. Sono anche due squadre molto stanche in questo momento, se posso dire. Convocati. A me dispiace dell'arroganza a volte di certi arbitri che vengono qua. Dante è per noi è una iattura, perché lo testimonia un po' quello che è stata la storia di Bani. Secondo me lui non sa gestire le gare, perché innervosisce molto il pubblico con certe decisioni, al di là se è in buona fede o in mala fede, però non si può dare responsabilità all'arbitro quando si incontra una Roma in 10. In questa Roma è difficile batterla in 10. Ci poteva stare, io non so se c'era questo po' di gioco e se c'era dominio, ma so che anche questa decisione qua è stata molto dubbia, per cui mi dispiace, perché a Roma sta succedendo un po' troppe cose, stanno succedendo a Roma, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio. Quest'ultima sinceramente doveva risparmiarsela Preziosi, l'abbiamo già detto, ha ritrattato, ha detto nessun riferimento a Mafia Capitale. Di che parlava, però, del maltempo e delle onde dei marziani. Ha fatto un riferimento, qui io apprezzo molto il fatto che Preziosi, se posso permettermi, Preziosi ha fatto benissimo a ritrattare, perché è ovvio che nell'adrenalina, nella rabbia delle partite si dicono delle cose. Però Pierluigi, ho pensato una cosa che chiaramente non c'entra niente. Ho capito, però possiamo dirlo io e te al bar a microfoni spenti, cioè anche loro, io dico anche no, loro anche dicendo, loro devono no però sto insomma, dicendo che ho fatto bene a ritrattare stamattina, ma immediatamente però sì. Quindi complimenti per aver ritrattato, però a quel punto non dire che non si riferiva a quello, a che si riferiva, al maltempo, si riferiva a Mafia Capitale, lo sappiamo tutti, del resto è sulla prima pagina di tutti i giornali ed è uno scandalo enorme, sì. Quindi complimenti per aver ritrattato, secondo me era meglio se diceva scusate ho fatto riferimento a una cosa che non c'entra niente, punto, perché sennò sembra che ci prenda in giro, capito, no? che fa un ragionamento, tutto qua, ma è un dettaglio, insomma, la notizia positiva, il dato politico di oggi è che si è reso conto di aver detto una cosa nell'adrenalina del momento, nella concitazione del momento, che non sta né in cielo né in terra, e ha giustamente ritrattato. Quindi Max Nerozzi, che ti devo dire, sempre sospettosi? Che ti devo dire, sempre su Preziosi, no? Sulla Sampdoria! Dimmi se sta andando. Sulla Sampdoria! No, la Samp, io sono d'accordo con Pierluigi, avevano dati meriti anche a Mihajlovic, che ha costruito una squadra molto solida, si è visto nel secondo tempo quando si sono messi 4-5-1, e poi è stato onesto Allegri, cioè la Juve era abbastanza morta dopo la Champions, lui ha detto la partita doveva durare 45-50 minuti, cioè la benzina. Quindi la teoria ufficiale è che la Juventus si era pagato la partita di Champions. Ma secondo me anche vera, sai, nel senso che ne aveva poco, sono partiti sparati, se andava come doveva andare magari andavano a riposo 2-0 e la gestivi, hanno spremuto pochissimo, dal 70% di possesso palla, una roba se mai giocava a porta unica a un certo momento, però quando stai su 1-0 c'è poco da dire, e dopo è stata brava la Samp. Sì, ci sono anche dei dati, terzo pareggio consecutivo per la Juventus, quello di Coppa andava bene, gli altri due, vabbè, a Firenze puoi pure pareggiare, ieri meno, tra l'altro si interrompe, se non sbaglio, una striscia di 25 vittorie consecutive allo stadio, giusto? Sì, esatto, sì. E pareggi così dal marzo 2012 che la Juve non li faceva. E poi c'è un altro dato, che è quello degli attaccanti che non la strisciano più. Sì, è vero, sai, finora la Juve ha vissuto molto di Tevez che adesso sta tirando il fiato. Llorente ieri è entrato al partito in corso, non l'ha mai vista. Morata secondo me è un grande talento, si fa trovare dove deve farsi trovare, però forse gli manca un po' più di cattiveria quando deve difendere il pallone, quando c'è da lottare. E poi la cosa drammatica secondo me per Allegri, e lui ieri ha fatto riferimento in conferenza stampa, pur non facendo i nomi, sono spariti gli inserimenti delle mezzali, esatto, che sono state le armi della Juventus, esatto, esatto. E anche Marchisio Vidal, in parte Vidal è pazzesco, sai, Marchisio ieri giocava da regista, lo scuso, ma Vidal e Pogba, Pogba ha giocato un buon primo tempo, ma anche lui in area c'è bisogno di mettere i cartelli per rivederlo, e Vidal è in una condizione atletica disarmante. Pura condizione atletica per Vidal, o c'è qualcos'altro di rotto? No, guarda, secondo me un po' sì, perché sai, lui la preparazione non l'ha praticamente fatta, perché ha fatto il mondiale col ginocchio appena aggiustato e l'ha pagato. Adesso sta un po' rimontando, ma sai, se lui non ha condizione fisica è un giocatore molto meno dominante di quello che sa essere. Sei d'accordo, Pierluigi? L'hai visto, lo vedi anche tu in questa sì, prospettiva? Sì, poi appunto il calcio, non voglio dire la solita frase, cambia rapidamente, no? Pensa a Garcia, in 4 giorni è passato da essere discusso addirittura a essere tornato invece grande protagonista a meno uno della Juve, quindi tutto può cambiare rapidamente. È chiaro che la componente fisica, la componente del dinamismo per questi giocatori qui, l'energia per questi giocatori qui è il marchio di fabbrica, è la cosa migliore che hanno, e quindi è evidente che sia la cosa importante, la cosa decisiva, la cosa che fa la differenza, e quando non c'è, nei momenti in cui c'è un po' di stanchezza, sono giocatori molto depotenziati, sono per me sempre, come direbbe Sconcerti, la differenza della Juve, sì. Nel senso che sono dei giocatori che fanno veramente, assieme a Tevez, una qualità, che danno quella qualità superiore, che poi, è normale, sono i giocatori più forti. Poi la Juve ha comunque degli anticorpi, perché per dirti, ieri Buffon ha fatto una grande parata sull'1-1, Bonucci a un certo punto della partita ha cominciato a usare la sua arma, anche tutte le altre, perché è un grande giocatore tecnico, questo non va mai dimenticato, però ha messo sul piatto anche, diciamo, il nervosino caca, cominciare a giocarsela in maniera un pochino più sporca, ma sporca non volevo dirlo, no, perché non è sporca, ma alzare il tasso agonistico della partita, perché evidentemente si era complicata un certo tipo di situazione. Quindi la Juve in questo ha degli anticorpi enormi, ha delle qualità, cioè prima di morire, prima di perdere, prima di buttarsi via, secondo me questa squadra in questo secondo me è superiore alla Roma. Sono d'accordo. È superiore alla Roma. La Roma probabilmente ha altre qualità, se riesce a giocare il calcio suo, è una squadra secondo me che ha dei picchi di rendimento ancora superiori a quelli della Juve. Quindi è una sfida fra queste due categorie. Da un lato una mi sembra un po' più squadra, un po' più cattiva, un po' più aggressiva, che non muore mai, e l'altra mi sembra un po' più bella quando riesce a esprimere il potenziale. Grazie Pier, buon lavoro di Kitaka, ti vedo dopo. Senz'altro. Massimiliano Nerozzi, prima di ringraziarti dammi un nome o due per la Juventus sul mercato, chi sta pensando? Sicuramente un esterno e a un trequartista. Nel senso che Allegri ormai è convinto di giocare 4-3-1-2 e secondo me un trequartista potrebbe dargli la caccia. Mi aspetto che possano prendere un nome mai uscito, il terzino potrebbe essere veramente Montoya, sì, o qualcuno del genere, anche se Montoya gioca meglio a destra, secondo me servirebbe più a sinistra, visto che Zamora non ci sarà per 3-4 mesi, e su questo si lavorerà. Poi bisognerà vedere, caro, anche le condizioni di Barzagli, che adesso si dà a gennaio/febbraio, però sai, un giocatore che ormai è fuori da molto tempo e ha bucato già molti rientri, perché si parlava di 2 mesi all'inizio e poi siamo Siamo a dicembre, ancora non si sa. Grazie Massimiliano, alla prossima. Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio. Grazie Massimiliano Rozzi della Stampa. Adesso ci fermiamo per Bet Corner GR, poi torniamo. 800 24 00 24 è il numero verde per parlare con noi. Quote e pronostici. Sono due le gare che chiudono la quindicesima giornata di Serie A, si parte alle 19 con Empoli-Torino, vediamo dunque le quote sniper. La gara del Castellani, l'1, la vittoria dell'Empoli è quotata a 2,40, l'X è a 3,20, il 2 è quotato 3, gol per questa partita quotato 1,83, no gol quotato 1,87. Alle 21 invece al Bentegodi, c'è Chievo-Inter, duello tra Icardi e Maxi Lopez, due attaccanti accomunati da una recente storia di gossip. L'1, il successo del Chievo, è quotato 4, X a 3,25. 2, quotato 2. È possibile per questa partita indovinare anche il nome del primo marcatore. Nel Chievo spicca il nome di Maxi Lopez, quotato 8,50, Paloschi 10, Birsa e Meggiorini sono quotati 12, nell'Inter Icardi e Palacio sono quotati 6, Osvaldo 6,50, Kovacic è quotato 12. In campo pure la Serie B questa sera alle 20:30 c'è il posticipo tra Latina e Varese. L'1, il successo dei nerazzurri, è quotato 2,10, l'X è a 3, il 2 è quotato 3,90. Questa era l'ultima delle quote sniper di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Tutti convocati. Ciao, non da con noi, buonasera. Buonasera, sono Claudio da Napoli, volevo fare la domanda, ringraziare soprattutto per la possibilità che mi avete dato. Prego. La domanda è appunto se col cambio modulo Benitez poteva appunto può migliorare, se Koulibaly con la terza gamba poteva arrivare a prendere Menez. Grazie. Non so, la terza gamba non so quale poteva essere, ma direi che Menez ha fatto un grande gol. Forse lì bastava la seconda di gambe, magari anche mettendolo giù, però senza lasciarlo andare via con tanta leggerezza. Beh ragazzi, tarda ora, cosa si volete fare? Si può arrivare a parlare anche nel salotto di Sky con il professor Sconcerti della terza gamba di Koulibaly. Poi parleremo invece dei due magnifici piedi di Menez e di Bonaventura, che sono i due più forti giocatori del Milan in questo momento, senza alcuna discussione. Ma dall'altra parte, ne parlavamo prima anche con Pierluigi Pardo, un Napoli che sinceramente in questo momento non sai decifrarlo. Io ho davvero la sensazione che qualcosa si sia scollato tra la squadra, tra i giocatori, Benitez, l'intero gruppo, e dunque in questo momento davvero Napoli ha forse una prova, ha forse la prova d'appello di questa strana Supercoppa italiana giocata a Doha il lunedì prima di Natale. Poi credo che innanzitutto qualcuno dovrà tornare a parlare e a raccontarci che cosa sta capitando, e in secondo luogo qualcuno dovrà prendere delle decisioni. Intanto vorrei commentare con voi anche insomma la giornata di ieri sul campo. È stata tutt'altro che tranquilla, anche e soprattutto dal punto di vista arbitrale. Sappiamo bene delle rimostranze molto vibranti e proteste molto vibranti soprattutto da parte della Juventus, con Nedved che si è ricordato di essere all'improvviso di essere stato un grande scattista ieri, è partito dal suo seggiolino da tribuna, è andato a bordo campo e le ha cantate in faccia a dovere arbitro di turno, perché ha concesso un recupero davvero molto ridotto, 3 minuti con tante sostituzioni eccetera eccetera, e nemmeno trascorsi tutti peraltro, non li ha nemmeno fatti passare tutti, anche ha fischiato la fine della partita qualche secondo prima dello scadere del terzo minuto di recupero. Ma questo è un episodio, c'è poi qualcos'altro su cui la Juventus recrimina, c'è anche da dire che Vidal il secondo cartellino giallo se lo doveva beccare tutta la vita. Possiamo anche dire che secondo normale ormai abitudine, che francamente non riesco a capire, il calcio d'angolo su cui è nato il gol della Juve è stato battuto in maniera irregolare, perché Marchisio ha messo la palla fuori dalla linea del corner eccetera eccetera, però animi tutt'altro che sereni a Torino, per non dire di quello che è successo a Genova. Tra poco torniamo a parlarne. Intanto Sandro dalla provincia di Roma e Ivano da Brescia sono altri ascoltatori. 800 24 00 24. Ah, volevo dire questo per la cronaca. durante il periodo del GR, sono uscito e le ho cantate chiare all'amico Simone Spezia, perché ha confessato di aver dimenticato nel giornale radio di menzionare l'accoppiamento del Torino con l'Atletico Bilbao, chiede scusa in ginocchio a tutti i tifosi granata, ve lo giuro, è così, ci sono i testimoni. Sandro, pubblico imbestialito. Sandro, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Sandro, anche da molto poco tempo. Senta, sono soltanto per un'osservazione. Per quanto riguarda sempre le condizioni che avvengono sui rigori, non rigori, e quando si parla della Juventus se ne parla per una decina di giorni, quando si parla di altre se ne parla per 10 secondi. Ma voi avete notato per caso ieri, quando è stato preso Pogba per il collo prima di tirare in porta? Grazie. Sì, questo è stato uno degli episodi che la Juventus ha sottolineato, ce ne siamo resi conto e l'abbiamo anche menzionato. L'arbitraggio di ieri non ha soddisfatto la Juventus per il recupero e per alcune altre valutazioni, quindi nulla è nascosto e tutto mi sembra abbastanza chiaro. Non ci sono state, a mio parere, degli errori madornali in quella partita, in quell'arbitraggio, però quello è uno degli episodi che sono finiti al vaglio di Nedved della Juventus. Ivano, Brescia, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Salve. Sento, volevo intervenire sul fatto che non avevate ancora detto niente sui torri subiti dalla Sampdoria, però dopo ho sentito che l'avete detto poco fa, insomma. Più vistosi secondo lei? Quali? L'espulsione, vabbè, quella forse contava poco, l'espulsione per Vidal. Quella mi sembra abbastanza evidente. Ha tirato un calcio d'angolo 20 centimetri fuori dall'area d'angolo. Nessuno dice niente, non so. Sono tifosi interista, vorrei chiedere cosa ne pensate di stasera del Colchievo e dell'accoppiamento con Celtic per l'Inter. Grazie. Dunque, per quanto riguarda la partita di questa sera col Chievo, credo che non ci siano molte variabili, no, su quello che l'Inter deve fare. Deve vincere questa partita, se no sono guai grossi, se no davvero potrebbe tornare in discussione Mancini il progetto. Potrebbe l'Inter a questo punto davvero trovarsi nelle condizioni di doversi guardare alle spalle, perché 7 punti sopra la linea rossa, o il tassametro ricomincia a correre oppure davvero è un problema. Io noto come, insomma, la classifica sia possiamo discutere sulla solita storia del livellamento verso l'alto, verso il basso, però in una classifica di questo tipo tu fai un paio di risultati positivi e ricomincia a marciare, ricomincia a vedere certi traguardi, però per l'Inter è davvero il momento di invertire la tendenza. Per quanto riguarda l'accoppiamento contro Celtic, anche qui non vedo molti altri risultati possibili per l'Inter, perché il Celtic mi sembra in una delle peggiori versioni degli ultimi anni, non è mai stato una superpotenza del calcio europeo nelle ultime stagioni, grandi tradizioni, meraviglioso stadio, meraviglioso ambiente, però se parliamo strettamente di calcio, non una grandissima cosa. Dammi l'amo viola, dammi l'amo viola. Si rimette ancora il pallone fuori dalla mezzaluna. Tirano si può fare da lì. È nato il cross del gol per Ebra. La rimette in mezzo Marchisio. Ancora per Bonucci. L'anticipo su di lui è di Gastaldello. Continua così. Ci sono state sostituzioni. Pensavo che fosse un pochino più lungo, però è stato così, dobbiamo accettarlo. Pjanic, che palla di Ljajic. Pjanic allarga ancora, Nainggolan, tu per tu, Koperin lo salta, calcio di rigore. Calcio di rigore rosso per Perin, cambia la partita al 29esimo. La protesta cresce. Batterina va Perotti, eccolo il cross con il destro, colpo di testa, la palla che ha pareggiato il Genoa, ma nulla l'arbitro, annulla il guardalinea, esultava Rincon, bisogna rivederla. È stato espulso nell'intervallo, Ma penso che quello un po' agitato fosse l'arbitro Banti, non io, che ha pensato di allontanarmi. Io ho semplicemente fatto notare che nei due episodi del rigore prima e l'altro del gol sul fallo, sulla simulazione degli AIC, erano stati due episodi sfavorevoli e sfortunati per noi. La gente non ci sta. Questa Roma è difficile batterla, quindi ci poteva stare, io non so se c'era questo fuori gioco e se c'era dominio, ma so che anche questa decisione qua è stata molto dubbia, per cui mi dispiace, perché a Roma sta succedendo un po', troppe cose stanno succedendo a Roma, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio. Rapido riassunto della maledetta domenica. Tiziano Pieri, grazie per aver accettato la nostra convocazione. Buongiorno. Grazie a voi. Ciao. Buon pomeriggio. Allora, distinguiamo le due partite. A Torino, Doveri ha lasciato scontenti un po' tutti. Doriani e Juventini ha diretto con una certa imprecisione. Mi sembra che la cosa più eclatante sia l'episodio su Vidal. I tre minuti di recupero concessi alla fine, forse una svista, un errore, una decisione diversa. Ma nell'insieme diciamo che i tre minuti possono anche essere considerati congrui, considerando i parametri di analisi che fanno gli arbitri, la squadra arbitrale, in particolare il quarto uomo che comunica poi all'arbitro il recupero, poi lo determina l'arbitro e lo decide l'arbitro come arbitro finale. Però calcolando i 30 secondi per ogni sostituzione, le sostituzioni sono state 6, una delle quali durante l'intervallo, di conseguenza erano 2 e mezzo, ha valutato qualche interruzione e quindi ha fatto questi 30 secondi in più, anche se poi a onor del vero ha fischiato 10 secondi prima. Quindi questo poi non può far nascere però le polemiche per questi 10 secondi. Ecco, ci sono state in tribuna un po' di reazioni un po' troppo scomposte, a mio modo di vedere, poco belle da insomma valutare in televisione. Certo, gli episodi fondamentalmente sono 3, al di là del calcio d'angolo dove il pallone Marchisio l'ha messo ampiamente fuori dall'area, la lunetta d'angolo cosiddetta. Sì. Non è il primo, non sarà l'ultimo, però gli arbitri devono porre maggiore attenzione su queste cose che sono anche abbastanza semplici. Sì. Poi c'è un contatto tra Pogba e Cacciatore, mentre stava calciando Pogba, Cacciatore ecco, lo trattiene, quindi lì si possono anche configurare i parametri di una fallosità. Poi in campo è stata abbastanza difficile da percepire, lo so, perché in campo queste fallosità sono molto molto difficili, perché quando calcia al calciatore non hai più la dimensione del fallo, se c'è stata questa spinta efficace. Diciamo che a livello televisivo è più facile, possiamo dire che poteva starci il calcio di rigore. Il fallo di Vidal è indiscutibile, mancano pochi secondi alla fine, però è un vantaggio inutile in una zona del campo in fase difensiva, per la Sampdoria una ripartenza insomma che poi non ha sfociato in niente di buono e ha dovuto poi interrompere il gioco, quindi alla fine diciamo che l'ammonizione e la conseguente espulsione, anche perché era sacrosanta, anche perché poi la prossima settimana la Juventus giocherà col Cagliari, quindi il Cagliari via è stato anche svantaggiato da questa certamente decisione. Certamente c'è questa moda di portare il pallone fuori dal quarto di cerchio del corner, non so quale possa essere il vantaggio per chi calcia e non so perché si sia diffusa questa moda. Sì, no, c'è sempre stata, anche quando arbitrava ancora io, ormai preistoria, gli anni qua passano, illustri, però mi dicevano quando facevo presente questa cosa, perché era in televisione, poi passa male perché comunque viene aggirata una regola, mi dicevano i calciatori: mi dà fastidio la bandierina, oppure nella lunetta è disconnesso il terreno di gioco, quindi il pallone si muove e calciano male. Qui possono anche avere ragione, però se la regola c'è, nello stadio in particolare, ecco, parliamo di Juventus Stadium, ma anche in tutti gli altri campi, a onor del vero, poi parliamo sempre quando succede il gol, però bisogna dire che più volte l'ho visto quest'anno in particolare, poi magari a livello televisivo lo fai vedere solo quando nasce il gol e non chiaro, è tutto questo, chiaro, però chiaro. Dobbiamo dire, c'è un giardiniere, uno stadio nuovo, pura anche la lunetta d'angolo, perché a questo punto gli arbitri dovranno porre rimedio a questa brutta abitudine. Sì, vanno lì con un'altra bomboletta di un altro colore e facciamo dei murales in campo, sì, o ci vediamo cosa. Bisogno, no, ma comunque guarda Tiziano, ma per farti capire, ma lo sai meglio di me, l'umore di lunedì come questi, sta in una mail che mi è arrivata ora, l'altra giornata infelice per gli arbitri italiani, campionato falsato a favore della Roma, no, come il Palazzo ha deciso, Tavecchio e Band contro la Juventus e Danielli favoriscono la Roma capitale, come dice Preziosi, molti nemici, molto onore, mi scrive Andrea che aggiunge un post script, un saluto con affetto Pieri, vittima del sistema morattiano. Lasciamo stare questa ultima mail. Diciamo, parliamo di Juventus Sampdoria. Di questo episodio in particolare deve esserci maggiore attenzione. Non è una giornata negativa, come ha detto l'ascoltatore. Ma la partita di Genova, Tiziano? 15 giornate, su 15 giornate è stata la 14esima, la penultima, ecco. Quella è stata veramente negativa a livello arbitrale. Oggi c'è stata una risposta, qualcosa fisiologico, diciamo. Sì. Insomma, sono cose abbastanza normali. È abbastanza normale. Poi è vero che in una settimana vedi la Roma che qualcosa raccoglie, nell'altra pure, e allora cioè questa che deve essere una normale dialettica, perché bravo, se rimane una normale dialettica dovremmo anche abituarci. Fortunatamente un bel campionato, c'è un testa a testa che speriamo arrivi fino in fondo, che renderà bellissimo questo campionato. Però non possiamo ogni domenica dire è stata avvantaggiata la Juventus o è stata avvantaggiata la Roma, basta. Veniamo a Genoa-Roma, come hai detto tu, Luca andava espulso Perin? Sicuramente sì, la regola, possiamo stare a contestare la regola, io sono il primo, sono d'accordo con Pierluigi Collina che ha portato avanti questo eccesso di questa regola, cioè la tripla sanzione, lui all'UEFA l'ha portata, ha detto cambiamo la regola, all'IFAB ha fatto presente questo, perché tripla sanzione si intende calcio di rigore, quindi comunque sia ripristini quello che era prima, riporti una chiara occasione da rete, perché assegnando un calcio di rigore, quindi tu rimetti il pallone e il calciatore attaccante davanti al portiere, quindi più chiara occasione di questa, certo, non c'è, certo. Tu poi butti fuori e spelli il giocatore reo di aver fatto il fallo all'interno dell'area di rigore, quindi seconda sanzione, e poi c'è la terza sanzione che è quella della squalifica, quindi Perin ha perso quasi tutto Genoa-Roma, in particolare parliamo di questo esempio, ha perso tutto Genoa-Roma e perderà anche Torino-Genoa della prossima settimana, perché sarà ovviamente squalificato. Di conseguenza, ecco, questa tripla sanzione è eccessiva, però è la regola, Luca Banti deve applicarla, anche se io non sono d'accordo, probabilmente anche lui non sarà d'accordo, però la deve applicare. Oggi è così, si configurano tutti i parametri della chiara occasione da rete, perché Burdisso sulla linea non conta, perché se pensiamo che un calciatore, un difensore che commette un fallo, il portiere c'è sempre dietro, e se diciamo che l'ultimo difensore, l'ultimo baluardo stende un attaccante, poi c'è dietro il portiere, a maggior ragione allora non si dovrebbe mai espellere un difensore che commette fallo. A maggior ragione ieri il portiere, essendo stato saltato, Burdisso non poteva parare con le mani, poi non è più ultimo uomo, quindi sì. Ricordiamo sempre che la regola ha avuto un'evoluzione, non è più l'ultimo uomo, ma chiaro che sono da gol. In teoria, anche se ci fossero stati tre difensori, secondo me è sempre chiaro occasione da rete, perché un tiro in porta alto il difensore non può parare con le mani, quindi è svantaggiato, e quindi la configurazione del reato in questo caso sportivo, sì, e fallo c'erano tutti, assolutamente sì. Banti ha giudicato molto bene in questo caso, anche se sarà dispiaciuto anche a lui espellere per il... Beh, chiaro, perché la vedi come una situazione ingiusta. E per chiudere c'è il gol della Roma, c'è cioè quella simulazione di Ljajic, l'arbitro cosa doveva fare, cosa avrebbe dovuto fare? Allora, guarda, dal campo è difficile coglierla, però sicuramente in quel caso secondo me ha sbagliato, perché questa è una chiara e si vede dal rallenti, cioè Ljajic una volta che salta De Maio, avendo allungato troppo il pallone, piega le gambe immediatamente, quindi lì si vede la volontà di Ljajic di fare simulazione. Però a onor del vero, diciamo che Banti, essendo uno dei fischietti più inglesi che abbiamo in Italia, quindi diamo merito anche a lui che lascia molto giocare, quindi rende a volte le partite spettacolari. spettacolari, a volte magari gli possono scappare di mano, deve imparare che, a mio modo di vedere, se posso fare una critica a Banti, deve imparare che non tutte le partite sono uguali, quindi vanno interpretate anche in maniera diversa. Ci sono gare dove puoi fischiare anche 15 volte soltanto, sì, sì, altre sì, dove devi fischiare necessariamente 30, se no poi finisce in rissa, come abbiamo visto negli ultimi minuti. Anche se ieri è stato credibile, perché? Perché comunque ha giudicato una simulazione di Piniglia allo stesso modo come quella di Ljajić, quindi ha usato lo stesso metro di giudizio, e questo in una partita è importantissima, l'uniformità, e Banchi ci è riuscito, e secondo me è stato credibile. Sì, sì. No, ma poi ha ragione anche chi, l'ascoltatore che scrive: comunque la chiamata sul fuorigioco del Genoa è stata una gran chiamata, complimenti al guardaline, no? Perché poi si fa, anche domenica scorsa abbiamo detto, abbiamo parlato, ah, ma guarda, fuorigioco di un nano millimetro, vabbè, bravi loro, bravi loro a prenderlo. A volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, no? Sì, ma chiaro, chiaro, come giusto che sia, come sempre nella vita. Grazie Tiziano. Grazie a voi, buon abbraccio. Grazie Tiziano Pieri. Ascoltatori. Grazie. Allora ragazzi, tutto chiaro? Vincenzo Ferrara, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo cambiare un attimino il fronte della discussione. Dopo il proclama di Renzi a candidare Roma Capitale, volevo sapere un vostro parere. Per me non è assolutamente il caso. Ascolto la risposta per radio. Quale vuole che sia, anche secondo me non è assolutamente il caso. Vincenzo, che fretta aveva, dove doveva scappare? Anche secondo me non è assolutamente il caso. Non credo che l'Italia in questo momento sia nelle condizioni economiche, strutturali, probabilmente anche politiche, per candidarsi ad ospitare e a supportare un evento come l'Olimpiade. Quindi nelle ultime edizioni dei grandi giochi, delle grandi competizioni che siamo stati chiamati ad organizzare, non abbiamo fatto grandissime figure. Non credo che il nostro paese sia più pronto a dotarsi delle infrastrutture che servono per un evento come un'Olimpiade, quindi credo che in questo momento sia abbastanza fuori luogo questa candidatura. Mi spiace molto dirlo, naturalmente, ma è quello che penso. 800240024, numero verde borsa. Bene, con lo stesso spirito annuncio che assieme al CONI saremo a fianco, perché da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai Giochi Olimpici del 2024. Tutti convocati. Strepitosa del francese. A te Alessandro. Il pubblico in attesa che arrivi Pippi, che adesso è su radio, radio 1, eccetera, eccetera. Quindi faccio come a teatro, che prima che arrivi la stella arriva uno che intrattiene un po' il pubblico. Gagliani, non è vero? Si è preso un altro ambrogino d'oro. Poi dopo ho visto, quindi ecco, se volete farmi qualche domanda sono qua. Io ve lo dico, certo, è in forma. Si vede. È in forma stasera Gagliani. Io sono esattamente, purtroppo, infatti non gioco le carte perché io non riesco a essere così. Io sorrido quando vinco e sono cupissimo quando perdo, esatto. No? Non riesco a fare diverso. Rapidamente Gagliani, allora andiamo rapidi, è la vittoria che vi cambia la stagione è questa? Non lo so se ci cambia, non so se ci cambia la stagione, certamente ci siamo riagganciati al gruppone che sta lottando per il terzo posto, che era a 5 punti la settimana scorsa, è diventata 2. Bella palla per Armero, pronto a traversone, eccolo che arriva, c'è! Buonaventura! 2-0! Una serata che ci serve per crescere. Io mi dispiace oggi aver letto il contrario di quello che avevo detto ieri in conferenza stampa, per far vedere che non ero d'accordo con il mio presidente, anzi. Lui è giustamente ambizioso come lo sono io, perché alleno il Milan e non mi posso accontentare di nulla, però devo pensare a far crescere questa squadra partita dopo partita, però il sogno di arrivare in Champions ce l'abbiamo tutti, spero che sia già da quest'anno. mi aspettavo anche il coretto diretto da Berlusconi, adesso tutti in coro dite presidente aveva ragione. Furio Fedele, buongiorno. Buongiorno a te, eccomi. Senti, io mi limito a notare come di questi tempi il Napoli sia un gran bel Prozac per tutti, eh? Sì, effettivamente ieri Benitez non è che ci ha capito molto, ora al Milan, ma anche si è visto un Napoli sicuramente il peggiore della stagione, avrebbe dovuto gestire meglio una partita che ha completamente rianimato il Milan, o meglio sicuramente l'ha fatto risorgere. Poi sabato ci sarà un nuovo esame difficilissimo all'Olimpico contro la Roma. Si è visto un bel Milan, ma si è visto anche un brutto Napoli, troppo brutto per essere vero. Sì, troppo brutto per essere vero, una squadra che mi sembra un po' distante dal suo allenatore, ne parlavamo prima con Pardo, insomma sembra quasi che non ci sia più comunicazione tra queste due componenti. Ieri Benitez quasi rassegnato in panchina, hai avuto anche tu questa impressione? Sì, però non mi sembra che presi uno ad uno siano poi così malaccio i giocatori. No, no, tutt'altro. Infatti, secondo me sono la vera terza forza del campionato. Bravo, era quello che si scriveva quest'estate, e l'Inter doveva essere l'anti-Napoli, quindi come vedi a distanza di poche settimane è cambiato veramente tutto. Il problema è, secondo me, che Benitez dovrebbe gestire meglio tatticamente una squadra dove nel 4-3-3 potrebbero essere esaltate le figure di Jorginho e Amsic, ovviamente sulla linea mediana, e poi bisognerebbe giocare molto di più per Higuain. Higuain ieri era nervosissimo, sì. Forse troppo, e ha lanciato anche dei messaggi molto molto chiari, e sicuramente non ha gradito l'eliminazione dalla Champions League, certo, contro l'Atletico Bilbao, e poi ha fatto una fine abbastanza meschina appunto nel girone di qualificazione. Quindi evidentemente non doveva essere poi questa grande squadra, almeno stando a vedere i risultati. E comunque è un Napoli che si è tirato troppo presto fuori, proprio classifica alla mano, da quella che doveva essere la lotta per lo scudetto. Ci sono due campionati, in uno giocano Juventus e Roma, e nell'altro si giocano 7-8 squadre che lottano per il terzo posto come se fosse in effetti è la manna dal cielo. C'è qualcosa di definitivo in questo Milan, ovviamente in questo momento, cioè credi che questa squadra sia quella che Inzaghi potrà e dovrà cavalcare per un po'? Guarda, anche sono da tanti anni nell'ambiente rossonero è difficile fare delle previsioni. Dopo la sconfitta col Genoa eri a 5 punti dal terzo posto, dopo la vittoria sul Napoli sei addirittura a 2 punti, addirittura hai più che dimezzato lo svantaggio. Che dire, è troppo difficile cercare di capire, anche perché ieri si sono fatte sentire, o quantomeno si sono fatte notare, due assenze fondamentali, quella di Torres e del Sharawi, due giocatori sui quali quest'estate tutti avrebbero scommesso tanto per il valore, soprattutto per i trascorsi di Torres, e adesso forse nella partita più convinta, più convincente di questo Milan non c'erano e non si sono assolutamente considerati. Torres addirittura, evidentemente la terza panchina ha fatto alzare la temperatura del consecutiva, ha fatto alzare la temperatura del termometro, sì. E così è stato a casa a vedersela alla TV perché è febbricitante. Sì. Potrebbe essere questo forse il problema. Spero che non sia un dato definitivo per un Milan che ha bisogno di Torres e dei Sharawi, ovviamente nella forma migliore. Si parla anche di un Torres già in uscita sul mercato, cosa che non è stata nemmeno esclusa. Come fai? A parte che dovresti coinvolgere anche un terzo attore, il Chelsea, che è proprietario del cartellino, perché Torres si trova al Milan con un prestito biennale. Certo. Poi è gratificato da un ingaggio, beato lui, ancora adesso, soprattutto adesso faraonico, 4 milioni di euro netti all'anno garantiti fino al 30 giugno 2016, e non penso che Torres in questo momento abbia degli estimatori tali in Europa da potersi sobbarcare un ingaggio simile. Mourinho l'ha bello che è scaricato dicendo che secondo lui è felice al Milan. Certo, lo voglio vedere felice. Il mese del mese sicuramente, ma gli altri 30 o 31 o 29 o 30 giorni secondo me non è molto felice. Sì, intanto cioè, Sharawi rimane un problema, perché tutti a dire l'abbiamo aspettato, adesso sta bene, può giocare eccetera, però da un giocatore così tu hai bisogno dei gol, e del Sharawi non segna. Se ti serve un terzino, fai giocare un terzino per far giocare Sharawi da terzino. O no? Esatto, poi il gol sbagliato nel derby pesa come un macigno, lì avrebbe guadagnato milioni di punti sotto tutti i punti di vista, avrebbe riacquistato fiducia, avrebbe probabilmente la stagione del Milan sarebbe svoltata proprio in quel derby, e invece così non è stato, non è ancora. I gol fanno la differenza, il problema è che i suoi competitor, cioè quelli che miscono al suo posto, primo fra tutti Jack Buonaventura, fanno gol, esatto, gran giocatore. Guarda, lui Buonaventura può fare quattro ruoli, i due sulla linea mediana, destra sinistra, e altrettanto in avanti, quindi e chi è che lo molla uno così? Sharawi deve assolutamente invertire la rotta, temo che non sarà in grado di farlo contro la Roma, a meno che non Inzaghi non dia un turno di riposo a Honda, che non è brillantissimo in questo momento, per poi schierare Buonaventura a destra al posto di Honda e Sharawi a sinistra. Furio, dimmi ancora una cosa, siamo sicuri che Menez sia un 9 falso? Un falso 9 oppure un 9 vero, come dice Deschamps? Ma vedendo la classifica dei marcatori è un 9 e basta, cioè veramente. Sì, anche se è un centravanti molto atipico, non gioca proprio in area di rigore, ha fatto un gol sontuoso. Koulibaly, l'unica cosa giusta è stata evitargli il 3-0 dopo un altro slalom stretto incredibile. Secondo tempo, te lo ricordi, è stato meraviglioso. Però un giocatore molto, molto atipico, da Genova, contro il Genoa tutti si puntava su di lui e poi invece non è riuscito a realizzare. Ha bisogno di più continuità, ma comunque c'è bisogno anche di un centravanti vero in questo Milan, e doveva essere Torres, potrebbe essere Pazzini se si avesse un pochino più di fiducia in lui, soprattutto in quelle partite quando a un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine, sei ancora sullo 0-0 a San Siro, comunque devi risolvere la partita, e lì hai bisogno veramente, oltre che della fantasia, della tecnica e di non so quanto altro Menezza, anche proprio dell'aggressività, della prepotenza della grande squadra, come fa spesso la Juventus o la stessa Roma. Pippo non lo vede e credo andrà via, credo la storia di Pazzini al Milan finirà subito dopo Natale. Grazie Furio. A te, ciao, buon lavoro. Grazie, a tutti, grazie. Fedele, Corriere dello Sport. Ciro Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Eccoci qua, come va? Insomma, non bene dopo addolorato, calcisticamente addolorato. Calcisticamente, sicuro. Premesso che perdere con questo Milan fa male, perché sinceramente. A Benitez lo teniamo o lo mandiamo? Benitez tutta la vita deve rimanere, credo che sia il tecnico migliore giunto a Napoli negli ultimi, penso, 30 anni, 40 anni. E allora che si cambia? La paura è che ci sia una spaccatura invece tra l'allenatore e parte della squadra. Vedo come se alcuni giocatori non seguissero le indicazioni di Benitez. Qui secondo me non si tratta tanto di parlare di modulo a 3 centrocampisti, 2. Questa è una squadra che l'anno scorso ha fatto 12 punti in un girone di Champions dove è uscita per un gol, ha vinto, è arrivata terza in campionato, ha confermato quello che aveva fatto Mazzarri, che comunque era stato a Napoli per 4 anni. Per cui non credo sia tanto una questione di modulo quest'anno quanto di uomini che non riescono a seguire l'allenatore. La paura è questa proprio, c'è forse una spaccatura all'interno dello spogliatoio fra parte di giocatori, tra giocatori e allenatore, perché se il problema è questo, difficilmente... La sensazione è questa, ma non si dimentichi che già in estate c'erano stati degli scricchioli, e non dimentichiamo neanche che Benitez comunque nella sua storia è uno molto duro, al di là di questo aspetto da bravo curato di campagna, è uno estremamente duro, e non sarebbe la prima volta che si verifica questa situazione, perché già è successo di ambienti, di spogliatoi che hanno avuto dei problemi con Benitez. Ad esempio, io non credo, nemmeno se lo vedo, che Benitez e Hamsik vadano d'amore d'accordo, perché è un problema probabilmente tecnico, è un problema tattico, è un problema di rapporti, di quello che volete. Hamsik non gradisce giocare nel ruolo che Benitez gli disegna, e questo è un problema che il Napoli si trascina da 2 stagioni, ma faccio soltanto un esempio. Poi se è vero che c'è questo non lo so, non ho le prove, però se è vero che c'è uno scollamento tra l'allenatore e lo spogliatoio, tra l'allenatore e i suoi giocatori, allora a chi passa la palla? Alla società, è la società che deve dire chiaramente: ok, questo è l'allenatore, chi ci sta bene, quelli che non ci stanno via a gennaio o alla fine della stagione. In situazioni come queste, che sono abbastanza normali, quasi abbastanza banali nel calcio e nello sport, il peso della decisione è esclusivamente della società, che in questo momento non si fa sentire, che in questo momento sembra quasi assente. Traffico. Credo che abbiamo fatto un errore all'inizio, abbiamo subito un gol, dopo la squadra ha reagito bene, abbiamo avuto tante occasioni ma non abbiamo fatto gol. Inizia il secondo tempo con la voglia di farlo meglio, subiamo l'altro gol e è stato difficile. Dopo alla fine abbiamo controllato, abbiamo fatto cross, ma loro sono una squadra che ha qualità, che riparte bene e che si hanno chiuso bene. Convocati. Se tipo, ciao, c'era, ciao. Guardavo la partita e da parte c'era la Premium Cam che ti ha inquadrato per tutta la partita. Ero indemoniato come quando avevo la palla io, che mi chiedevi sempre la palla sopra. Ti metti la sopra. Sopra il difensore. No, tu gliela mettevi sopra. Io la mettevo, solo che Del Piero mi diceva, ma la passi sempre a Pippo. E non la... vabbè, perché eravamo amici, lo no. Sai. Ave Tacchinardi, Inzaghi se la raccontano, se la palla sopra, la palla sotto. Guarda qui che non c'è più. Pasquale Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo tornare sulla partita Genoa-Roma. Sì, volentieri. Non so se voi ci avete fatto caso, Garcia, dopo i fatti di Torino-Juventus-Roma, è tornato nelle conferenze stampa prima di ogni partita a provocare la Juventus, tornando sempre sui soliti fatti. Garcia chiama, la classe arbitrale risponde. Sì. Nelle partite contro l'Atalanta, contro l'Inter, contro il Sassuolo e contro il Genova, la classe arbitrale ha risposto. Ci avete fatto caso o no? Abbiamo fatto caso al fatto che la Roma ha raccolto qualche episodio favorevole nelle ultime domeniche. Ci abbiamo fatto caso e l'abbiamo anche detto. Atalanta, perché... Inter, Sassuolo e Genova. Atalanta, Inter, Sassuolo e Genoa. Dunque, Sassuolo ce l'ho, Genoa ce l'ho, ma lei, per quanto riguarda la partita con il Genoa, lei si riferisce in particolare a che cosa? Quale alla episodio? Simulazione di Ljajic in particolare. Simulazione di Ljajic in particolare. I giocatori del Genoa si sono fermati e i romanisti hanno continuato e hanno fatto il gol. Sì. Non ci si deve fermare se non c'è il fischio dell'arbitro, ma questo è un altro discorso. Comunque è evidente che è una guerra dei nervi che durerà per tutta la stagione, è un mind game che durerà per tutta la stagione. Ha raccolto la Juventus contro la Roma, ha raccolto per strada qualcosa anche la Roma contro la Juventus in questo confronto. Da entrambe le parti si fa notare come la situazione sia di questo tipo. Non mi aspetto delle reazioni ufficiali da parte della Juventus, le escluderei nella maniera più assoluta. Poi per il resto cosa volete che vi dica? Sono le due squadre più monitorate e più forti del nostro campionato e succedono anche queste cose. Poi bisogna fare i conti e comunque non dimenticarsene. Fabrizio Genova, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Dica. Buongiorno. Buongiorno. Allora, reprimo il cuore bianconero, sollecitato dall'ultima telefonata che ho sentito. No, perché reprimere? Perché? No, perché? Reprimo perché l'argomento su cui ho chiesto la parola sono le Olimpiadi, per cui... No, ma poi parliamo anche di Olimpiadi, non reprima, mi dica quello che pensa. No, quello che pensa è molto semplice, lei ha detto una cosa corretta, sono le due squadre più monitorate, è vero. Possiamo anche aggiungere, io posso aggiungere dopo 40 anni che seguo un po' il campionato, che la squadra più monitorata in assoluto è la Juventus storicamente, per cui diciamo che l'attenzione, lo sguardo è sempre molto molto attento. Ma sì, ma certo. È un po' maligno a volte, ma trovo che siano normali anche questi, a me piace l'espressione inglese, questi mind games, no? È evidente, sono la tattica che usa Garcia, la tattica che usano le avversarie è questa, sì, guardate noi loro. Come? Abbiamo le spalle larghe, noi bianconeri abbiamo le spalle larghe. Spalle larghe o strette, però è una tattica che viene, al di là del fatto che c'entra la Juventus, insomma, l'abbiamo vista anche da altre parti, cioè non è che Mourinho, Wenger e Ferguson, tanto per dire tre nomi, non se le siano mai tirate addosso queste cose, sono strategie, o Mourinho quando allenava dalle nostre parti, sono delle strategie volte a mettere pressione su chi andrà ad arbitrare la squadra avversaria. Mi sembra talmente scontato da essere quasi banale. Dica. È una un'analisi giustissima. Piacerebbe che gli osservatori e i commentatori, quando persone che usano questa tecnica evidentemente lecita, prendessero con un pochettino di allegria i richiami che queste stesse persone fanno alla sportività, eccetera. Sono d'accordo, assolutamente, certo, ha ragione. Dica. Comunque, insomma, allora, no, io mi rifacevo al... Ho sentito, io mi sono sintonizzato proprio mentre c'era l'ascoltatore che le chiedeva un parere sulle Olimpiadi, sull'annuncio. E ho trovato le sue parole sicuramente ragionevoli, sensate, proprio molto di buon senso. Però io faccio una considerazione e le faccio una domanda. Lei ha detto in questo momento fuori luogo, ma in questo momento in Italia forse qualunque progetto, qualunque idea cerchiamo di mettere in cantiere è tutto fuori luogo, dottore. Siamo in un deserto morale, siamo in un deserto economico. Siamo senza prospettive. Allora mi domando, se questa è la risposta. Sì, poi apriamo i giornali, c'è il presidente di una squadra che sta nella sua città che dice succedono cose strane a Roma, non vorrei fosse coinvolto anche il calcio. Beh, da lei, dove arriviamo? No? Vivo proprio in quella città e ho visto quella partita ieri. Allora, con tutto il mio tifo bianconero, però se poi guardo le cose con un pochettino di obiettività, dico che non è successo niente di scandaloso neanche ieri, per cui... Purtroppo quella persona non è nuova a considerazioni. Sì. Diciamo ma no, ma certe volte, guardi, io sono a favore della dialettica nel calcio, sono a favore anche della polemica, però non dobbiamo, loro non si devono mai dimenticare, anche noi, anch'io stesso non devo mai dimenticare, che non parlo al bar ma parlo ad un microfono, parlo a delle persone. Poi io sono libero di esprimere la mia opinione, nel senso che non sono tesserato, non sono coinvolto, eccetera, però non possono venire a dire ho detto la stronzata, mi correggo, scusatemi, non lo faccio più, perché la comunicazione è importante e anche il pulpito da cui viene la predica è una cosa estremamente, estremamente importante, la forma è sostanza, questo è quello che penso. Sono assolutamente d'accordo. Dica Fabrizio, sulle Olimpiadi. Per quello che conta sono assolutamente d'accordo. No, io le dicevo questo, tornando alle Olimpiadi, che poi uscendo ogni tanto dal calcio fa anche bene, penso, alleggerire, parlando pur di temi importanti. Dico, parlando delle Olimpiadi, io la mia considerazione è questa, non è il momento, sì, vero, ma forse se noi continuiamo a aspettare che sia il momento in Italia per cercare di guardare oltre, di vedere un po' di luce, di impegnarsi in un progetto, forse abbiamo finito di... Sì, di perdiamo anche la speranza. Ecco, allora io la leggo, questa sfida, questo guanto gettato, o questa stampella oltre la trincea, non so come chiamarla, le do anche una valenza di chiamarci un po' raccolta, vedere se riusciamo a vincere un pochettino il timore, la paura, se dobbiamo essere schiavi della corruzione, pensare che non si può più fare niente in Italia per la corruzione. No, Francia, io voglio essere ottimista, ma per natura, però quando... allora, in questi giorni a Milano si parla dello stadio del Milan, è stata individuata l'area, iniziano i lavori nel 2016, 2019, 2020... verrà inaugurato, poi c'è lo stadio di Roma, e però ci sono anche dei problemi al comune di Roma perché in quella città succedono delle cose e adesso non si sa, forse in comune non ci sono più le persone che ostacolavano il progetto, insomma vediamo. Io giro la testa dall'altra parte, qui a Milano, a due passi da qui, vedo un palazzetto dello sport, il Palalido, che è storico, che Giorgio Armani con i suoi quattrini voleva rimettere a posto, voleva ristrutturare completamente, anzi rifare completamente, costruendo un palazzetto da 5.500 posti, quindi non un'astronave, ma un normale palazzetto dello sport, molto bello, molto curato, eccetera. Doveva essere consegnato a settembre scorso, ebbene siamo ancora a zero, cioè nel senso che lì, se andate a vedere, c'è uno scheletro di tribuna in un enorme buco. E dunque io dico, parliamo pure di stadi, parliamo pure di Olimpiadi, parliamo pure di tutte queste cose e magari facciamo anche una bella professione di ottimismo. Ma se poi attraversiamo una strada e vediamo una cosa di questo tipo, di un impianto che doveva essere, che viene finanziato con soldi privati e che doveva essere consegnato lo scorso settembre e che verrà consegnato chissà quando, forse mai, beh, allora mi viene da dire che le parole del premier di Malagò sono molto belle, magari ci regalano un bel sorriso per natalizio, ma da un certo punto di vista sono anche discretamente preoccupanti. Torniamo a parlarne con grande piacere quando volete. Gianmarco Ferronato in regia, Franco Piantanida è il nostro autore, Daniele Bonamici in redazione, tutti convocati domani dopo GR delle 2. Se volete volete imparare ad essere dei veri giocatori di dodgeball, dovete conoscere le 5 regole più importanti. Schiva, piega, scansa, tuffati e schiva. Se seguite le 5 regole, nessuna palla su questa terra potrà colpirvi. Non dovremmo imparare a evitare delle palle che ci vengono tirate o... Ecco a che serve questo sacco di chiavi inglesi. Se riuscite a evitare una chiave inglese, riuscite a evitare una palla. No! Patches, sei sicuro che sia assolutamente necessario? È necessario che io beva la mia tiepida urina? Probabilmente no. No, ma io lo faccio lo stesso perché è sterile e mi piace il sapore. Certo.